fatto che la storia sia durata così a lungo, il progetto sia stato rimandato ormai da 2 decenni, possiamo dire, ci consente una verifica delle previsioni che sono state fatte a partire dagli anni 90 e poi nei primi anni 2000, e se noi confrontiamo i dati reali di traffico, di scambio con la Francia, con quelle che erano le previsioni iniziali, vediamo che ci sono degli scostamenti enormi. Si prevedevano dei tassi di crescita rilevanti, in realtà su quel versante, e quindi sulla parte occidentale delle Alpi, oggi abbiamo grosso modo gli stessi flussi che c'erano negli anni, metà degli anni 90. E questo è rilevante perché? Perché il fare una nuova infrastruttura non è un bene in sé, è come realizzare un nuovo stabilimento produttivo. L'opportunità o meno di fare quell'investimento dipende in un caso dalla produzione, quindi dal numero di auto che noi riusciamo a far uscire e poi, in più importante ancora, a vendere, in questo caso dal numero di treni o di, in caso di un tunnel stradale, di quei pesanti che transitano. Se il numero di veicoli è troppo piccolo, un investimento, in particolare un investimento come quello della Torino-Lione, che è molto rilevante, non è conveniente. Si dice spesso che è un'opera che non serve. Dire che non serve non è del tutto corretto. Qualsiasi opera ha un'utilità, il problema è confrontare quelli che sono i costi e quelli che sono i benefici. Qualcuno ultimamente ha sostenuto anche che se il traffico, diciamo, su ferro non giustificherebbe l'opera, beh, comunque c'è in aumento il traffico su TIR. Questo è corretto, se noi guardiamo gli ultimi 2 o 3 anni c'è stata una lieve ripresa dei flussi sulla strada, sull'autostrada che va dal Piemonte alla Francia, e però di nuovo siamo in un caso in qualche modo fortunato per chi fa l'analista come me, perché spesso si specula sul futuro e prevedere il futuro non è così facile. In questo caso invece è successo, purtroppo è una tragedia quella del Monte Bianco nel 2001, a seguito di quell'incidente il traforo Monte Bianco fu chiuso e tutto il traffico venne dirottato sul traforo della Valsusa. Ecco, in quegli anni sostanzialmente il traffico pesante, dico i TIR, erano il doppio del numero attuale. Questo ci dice che la capacità, il numero di veicoli che possono transitare nel traforo stradale attuale è molto maggiore di quello che noi registriamo, e questo vale anche per la ferrovia esistente che è stata ammodernata anche questa nei primi anni 2000 potrebbe avere un traffico che è 4-5 volte il livello attuale. Quindi noi, per fare un paragone con un'industria, abbiamo uno stabilimento che potrebbe produrre 10.000 veicoli al giorno e oggi ne produce 1.500, quindi non vi è ragione per ampliare la capacità produttiva. L'ultima carta sembra essere quella delle penali, però lei in un articolo sul Fatto Quotidiano, insomma, si è andato a vedere un po' le carte e non c'è traccia di queste penali. No. Negli accordi internazionali di questo non c'è traccia, l'ha confermato anche lo stesso commissario dell'osservatorio sulla linea Torino-Lione, non è previsto, non si può escludere che ci sia in futuro una richiesta di danni da parte della Francia, ma al momento sicuramente non siamo in grado di quantificarla. E c'è un altro aspetto da precisare, questo evidentemente dal punto di vista italiano sarebbe un costo, ma non è in realtà un costo economico, non sono dei soldi che noi spendiamo per fare qualcosa che non serve, sarebbe un trasferimento di risorse, quindi la vera valutazione dal punto di vista economico che dobbiamo fare è questa. Dimentichiamoci di tutto quello che è già stato fatto, purtroppo, dico io, perché sono già stati spesi 1,5 miliardi. Ecco, questi ormai sono andati. Quello che noi dobbiamo cercare di capire è se quanto dovremmo ancora spendere per completare l'opera compensa, è superiore ai benefici che noi possiamo attenderci. Se questo bilancio è positivo, ha senso proseguire. Se invece non lo è, purtroppo è il caso di fermarsi. È un po' come se qualcuno di noi avesse comprato un'azione a 10 euro, oggi è scesa a 5 euro, se però prevediamo che tra un mese il valore dell'azione si riduce ulteriormente, perdiamo dei soldi, ma ci conviene vendere l'azione oggi piuttosto che aspettare ancora del tempo e perdere ulteriori risorse. Siamo un po' in epoca di spending review da qualche anno a questa parte, e per realizzare anche misure promesse, insomma, dal governo che si va a formare, serviranno molte risorse. Quanto si risparmierebbe a interrompere i lavori, appunto, del TAV? Complessivamente il tunnel è previsto un costo ancora da sostenere di 8,6 miliardi complessivi per il il tunnel, poi ci sono 2,5 miliardi per la parte italiana, la parte a carico nostro dovrebbe essere intorno ai 6-7 miliardi. Teniamo conto che opere di questo tipo normalmente a costruttivo costano molto, ma molto di più di quello che è stato ipotizzato all'inizio. Le tratte ad alta velocità in Italia sono costate il doppio del preventivo iniziale, quindi potremmo raggiungere cifre anche molto più elevate alla fine.